Capito? Sì, lei se ne fotte perché tanto il venerdì gli danno anche la paghetta. E poi? Poi se la spende tutta al pub e poi si fa anche picchiare. Sì. E vabbè. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K, un saluto da Drago, poi, che si è preso le sue belle pizze in testa nella rissa inglese del venerdì. Venerdì, io non sono abituato alle risse del venerdì. No, infatti, venerdì, torniamo al nostro come groove, gli altri, al groove del venerdì che sta spopolando su veramente, YouTube, tutti vogliono tutti questa musica e noi non gliela diamo. No, rimane anzi, solamente, esclusivamente vogliamo... per l'ascolto radiofonico. Se uno vuole può registrare in questo momento. Sì, però noi tanto parliamo sopra, quindi è inutile. Facciamo apposta. Sì. Poi la SIAE, sai com'è, no? Poi. Poi cosa? Chi? Soprattutto chi? Allora, cosa parliamo oggi? Non mi viene il DJ moderno, perché qua siamo su Radio 24, Drago. È inutile tirarla per le lunghe, è news and talk, no, noi il venerdì, il groove, le cose. Parlano anche di sport ogni tanto su Radio 24. Vabbè, io volevo giusto parlare di sport, perché leggo in rete una pubblicità dello Juventus Summer Club, ossia la scuola di calcio estiva della Juventus per i bambini. Ah, per i futuri del Piero, Ho detto bravissimo, bene. Hai detto bene. Come hai fatto? Del Piero è il giovane più forte degli ultimi tempi. No, vabbè, scusa, del Piero ha 38 anni. Praticamente nostro coetaneo. Del Piero. Ma sì. Del Piero ha appena preso il posto. Non ha appena preso il posto di Baggio nella Juve. Ma chi? Ma stai parlando di 20 anni fa? Ma cosa dici? Ma come 20 anni ma fa? Ma sì. Ma scusa, ma Boniek ha smesso di giocare? Perché lo vedo in TV ogni tanto. Beh, capa, dai, lasciamo stare il calcio. Fammi solo finire di dire che se mandate vostro figlio ai corsi estivi della Juventus, poi vi diventa juventino. Quindi, forza. Viva lo sport, viva i campi estivi, ma attenzione a non fare scelte che potrebbero avere conseguenze sulla vita futura dei vostri figli. E la Juve non c'è più. E la Juve non fai c'è l'armonia più. Sulla seconda. E tiraggio la catena. E la Juve. E la Juve. E la Juve non c'è più. Ha tirato la catena e nel cesso è andata giù. E la Juve non c'è più. E la Juve non c'è più. Ha tirato la catena e nel cesso è andata giù. E la Juve è però tutta blu. Continua, e la Juve è tutta blu. Ho perso la Coppa Italia e Conte lo mettono in galera. E ora bambini, ricreazione. Quindi in via. Ecco, io non so. Bambino Alberto, invece di correre, divertirsi, scalmanarsi, cosa sta facendo? Gioca col suo smartphone, ecco. Con touchpad. Vabbè. Ma Drago, beato lui. È giusto così, i tempi cambiano. I tempi cambiano, però questi poveri bambini poi gli si atrofizzano le gambe, i muscoli, capito? Gli crescono solo le mani destre, capito? I pollici. Usano solo quelli. Vabbè, in futuro avremo uomini senza gambe con dei pollici giganteschi. Che bello. Bambino Alberto. Allora, Madonna, cosa c'è adesso? Ma non disturbatemi, no? Non vedete che sto chattando? Ah, vedi, con chi stai chattando? Con Fragolino 2007. 2007, sì, ma 2007 cos'è? L'anno di nascita, Fragolina. La data di nascita? Certo, cosa vuoi che sia? Data di morte. Ma vabbè, sì, 2007, ma a 5 anni hanno uno smartphone, ma è normale, appunto. Ma beati loro. Ma come beati loro? All'asilo ai miei tempi c'erano altro che robe tecnologiche, era tutto di legno. Tutto di legno, sì. Anche il smartphone? Ma che di smartphone, sì, di legno? Senti, bambino Alberto, io ho letto che bisogna avere almeno 15 anni per avere un computer o un telefonino. Ma cosa vuol dire? È la nuova teoria. I genitori dovrebbero dare computer, telefonini, smartphone, eccetera, solo dopo i 15 anni. 15 anni, 15 anni è come dire 100. Ma no, ma sembra. È un tempo immemorabile. Sì. Ma no, è pochissimo tempo, dai. Bastano qualche anno, così aspetti, con pazienza. Ma no, e basta. Ma non capisci, da piccoli il tempo è molto più lento. No? Passare da 5 a 12 anni è un'eternità. È un tempo immemorabile. Dai, ragione, io dico queste cose per il suo bene, capito? Ma che suo bene? Ma cosa fai? Il grillino adesso? Il grillino, Drago, sembra un grillino, ma sta retorica del bibliotecario grillino. Ma no, ma dai, faccio finta di non aver sentito l'insulto finta. Ai bibliotecari e ai grillini anche. Qui, e Fragolino 2007 mi chiede anche l'amicizia su speed dating, Speed dating? Ma io accetto, Vabbè. Ma cosa accetti? Cosa dite, voi sarà una ragazza seria, no? Ma che sei? Ma bambino Alberto, da quando è che ti interessano le bambine? Infatti, non ti è mai interessato niente. Fino adesso le bambine, anzi, ti facevano un po' orrore, tutto il mondo femminile, tranne tua madre Milfia, il resto non ti piaceva. Come sua madre? E Milfia? E Milfia, ma poi cosa c'entra se sia femmina o maschio? Vabbè, Fragolina. Ma Fragolina, questa qui c'ha tutta la collezione dei pupazzetti di suo officino. Allora io la sto convincendo, ci sono quasi riuscito. Sì. A prestarmela per fare una mostra all'asilo, no? Una mostra con biglietto pagante. E poi dopo la collezione la tengo io. Sì, ma i soldi anche. Scusa, però lei ti ha invitato a una cosa che si chiama speed dating. Lo sai almeno cos'è lo speed dating? No, io. Dai pupazzetti poi. No, in parole povere vuol dire che adesso vi fidanzate. Tu e Fragolina. Ma come ci fidanziamo? Sì, è un sito per fidanzarsi tra bambini e bambine. Ma no, allora è una truffa, di minori. Ma no. Cioè, scusate, io volevo i pupazzetti. Sì. Di quelli di sofficini, no? E mi ritrovo la fidanzata. Sì. E cosa me ne faccio? Beh, non c'è neanche la calamita da metterla sul frigorifero. Ma no, la calamita, Fragolina 2007. Dai. Poi, tra l'altro, magari è un sacrestano di 64 anni, quindi. No, niente, ma niente. Allora, facciamo che io facciamo il freestyling. E tu facciamo il coro. Volenterissimo. Niente. Gildo. Che noia mortale. Giocare da solo a battaglia navale. Gildo. Sono triste e solitario. Gildo. Facciamo che tu eri Gildo. Il mio amico immaginario. La stagione 2011-2012 degli asili non è ancora finita, ma già si scaldano i motori per la stagione 2012-2013. Cos'è? Un gran premio. Sì, perché tutti si scalciano per essere in pole position. E i blocchi di partenza sono ormai 2000 bambini milanesi che sono pronti, che dovranno essere piazzati a forza negli asili esistenti. A forza. Quindi anche noi per settembre a forza ci attendiamo un'invasione di bambini nuovi con conseguente creazione di classi pollaio. Le classi pollaio, esatto. Drago, non se ne sentiva parlare da secoli. È per forza, perché non esiste, lo sai, perché non esiste un partito radicale per gli asili. E Tito, stai bravo. No, ma ha ragione, ma cosa c'entra adesso il partito radicale? Tu hai notato che ultimamente i radicali, invece di cavalcare la tigre dell'antipartitocrazia di cui sono i padri, parlano di carceri sovraffollate? Ma infatti sono lo 0,02%. Ma questo era solo per farti capire che, non si è più parlato di classi pollaio all'asilo. Classi pollaio. Perché sono sopravvenute altre priorità, la crisi e poi ancora la crisi. Però scusa, se ci fosse un partito radicale sarebbe all'asilo, in crisi. No, sarebbe, tirerebbe subito fuori il tema degli asili sovraffollati, qualcosa si farebbe, come le carceri. Sì, vabbè, no? Ma solo che Pannella non è più un bambino, no? Allora Staderini invece andrebbe bene. Pannella sembra la strega cattiva. No, invece Staderini è giovane, andrebbe bene, no? Chi? Staderini. Ma com'è? Chi è? È il segretario dei radicali italiani, vedi che non lo sai. Allora ha dei ricciolini da bambino dei Parioli e lui sarebbe la persona giusta. Quando la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dice che noi commettiamo reato di maltrattamenti nei confronti di chi è sovraffollato, si parlava col presidente, scherzava Napolitano. No, quale sovraffollato? 67.000 persone, di dove ce ne vanno 44.000. Ecco, vedi, sono quei 2000 di Milano, di differenza. Bravo Staderini contro gli asili sovraffollati, vota Mario Staderini. Ma ecco. Vota cosa? Quali elezioni? Ma non lo so, però dai, cominciamo a far girare la voce. Ci vuole un partito radicale fatto da bambini dell'asilo. Ripensandoci, Pannella, cioè, anagraficamente sarà vecchio, sì. Ma come spirito, dai. Non è lontano da un bambino dell'asilo, dai, allora, è sempre lì che non mangia. Allora proponiamo ai radicali di smettere di fare politica adulta e di rivolgersi alla politica formato asilo. Magari lì un po' di successo lo trovano, no? Pannella, li trovi lei i voti in Parlamento. Intanto le persone si suicidano in carcere. Un po' di serietà e basta propaganda su queste cose. Le soluzioni ci sono, si tratta di adottarle, per favore. Stai zitto e vergognati. Sai perché? Perché? Boh, forse. Perché? Sei ignorante. Sei ignorante. Si insinua poco per volta questo semplice, questo sound. Effetto si ottiene infilandosi lo smartphone in bocca, e aprendo la bocca piano piano, sì, lentamente, piano. Come fosse un nuovo sodo, sì, del venerdì. Sì, ma non è così igienico, no? Devi stare attento. Ma dipende cosa ci fai col telefonino. Lo so, però sai com'è. Vabbè, allora ringraziamo, essendo venerdì, tutti quelli che collaborano a Chiedo Asilo, quindi Laura Faggin, Pietro Lacorte, Carmelo Lauricella, Chiara Mignemi, dottore Iorio, e chi altro? Niccolò Bodini, Alberto Caserini e Maria Grazia Guzmán. Che? Ma che? Ma come mi vai a fare il secondo?